Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Io sono la mamma di un ragazzino che ha una disabilità molto grave, per cui ha bisogno di assistenza 24 ore su 24, nel vero senso della parola, ossia giorno e notte. E da circa 3 anni, da quando si è aggravato, per portarlo a casa dall'ospedale, fargli vivere una vita dignitosa, adeguata, una vita abbastanza normale, malgrado la sua grave patologia, io praticamente ho rinunciato a tutti quelli che sono i miei diritti umani e vivo in una condizione di arresti domiciliari. Poche risorse per i disabili, poca attenzione per le loro necessità, pochi investimenti per proteggere il loro presente e il loro futuro. Lo rivela un rapporto del Censis sull'offerta da parte della sanità italiana di servizi a malati cronici e disabili confrontata con gli altri paesi europei. Il nostro paese destina... Tranquilli, non vi aspetta un'altra trasmissione lacrimosa, nessuno vi chiederà partecipazione, commozione, solidarietà, nessuno vi chiederà di mettere mano al portafoglio. Ma facciamo come ci siamo... detti di fare in questa settimana in cui Radio 24 dedica una sua particolare attenzione trasversale attraverso i programmi ai problemi del sociale, questa mattina, come nel mio precedente appuntamento avevo annunciato, entreremo ancora più nel problema che era stato toccato in maniera profonda, reale e concreta, con una testimonianza vissuta sulla propria carne, dalla madre che ci ha telefonato, di cui avete sentito uno stralcio in apertura di trasmissione. Ha detto: un genitore di una ragazza, in questo caso una ragazza di 40 anni, disabile, è una persona agli arresti domiciliari. Ora, non chiedo e pretendo che tutti prendano a cuore questo problema, ma è un problema molto diffuso e molto di più di quanto si possa immaginare. Quindi questa mattina vorrei pormi, ma scevro e libero da ogni pregiudizio, basandomi su una mia personale esperienza familiare, ma anche su quello che vedo, che sento, che ascolto, quali possono essere delle soluzioni possibili. Soluzioni possibili a cosa? Alla disperazione, all'abbandono, al fatto che un essere umano dica: io mi sento agli arresti domiciliari, che delle persone, dei nuclei familiari debbano rinunciare alle basilari forme di decoro e di vita relazionale che sono permessi a tutti, al di là poi delle difficoltà economiche, dei momenti di crisi, delle afflizioni comunemente divise fra tutti. Chi ha una persona non autosufficiente in casa, chi deve comunque occuparsi di persone non autosufficienti, e perché pongo in primo piano la famiglia? Perché la persona non autosufficiente come soggetto chiaramente è al centro dell'attenzione di quella famiglia, è il primo terminale della necessità di intervento, ma intorno a lui, per indotto naturalmente, ci sono delle persone che devono rinunciare a lavorare, devono rinunciare a avere una vita sociale, devono rinunciare alla loro felicità. E persone che rinunciano alla felicità in realtà sono un vulnus, una grave mancanza della felicità collettiva. Forse questo è l'unico vero problema di cui vi prego, se volete questa mattina, di dare un minimo di attenzione. Naturalmente le persone direttamente interessate saranno quelle che avranno più occasione e più chance questa mattina di portare un loro contributo, chiamando all'800 24 0024. Michele Colangelo, buongiorno. Buongiorno. Michele Colangelo, non so se lo ricordate, qualche mese fa lo cogliemmo ai nostri microfoni mentre era assieme ad altre persone come lui, e quando dico come lui significa Colangelo, una persona che vive su una sedia a rotelle, e cieco, tanto così dalla radio non si sa, lo definisco una persona che ha fatto comunque del suo problema una bandiera per occuparsi anche delle persone che come lui hanno bisogno di avere voce. Non tutti hanno voce, molta meno voce hanno le persone che non si possono muovere fisicamente, che hanno un problema di relazione e che sono costrette a avere come primario impegno la loro sopravvivenza. Colangelo ha fatto un triplo salto mortale da voce a chi non ha voce. Quel giorno manifestava di fronte a Montecitorio per una legge ingiusta, per l'ennesimo attentato alla vita, dico, di queste persone, perché quello che per noi è un taglio nel nostro budget familiare, è la rinuncia a qualcosa, è una piccola occasione di tristezza, è la mancanza di qualcosa su cui pensavamo di poter contare, una vacanza, un cambio d'auto, un vestito nuovo, Per chi ha un problema di disabilità significa dover rinunciare alla vita, di qualcosa di essenziale per vivere. Oggi Colangelo ha fatto carriera, direi. È collaboratore del sindaco per le politiche della disabilità a Roma Capitale. Cos'è accaduto, Michele, perché ci sia stata questa singolare alchimia per cui oggi sei tu a doverti occupare e essere la persona comunque che è nel vivo dei problemi? Guarda, intanto ci tengo a chiarire che questa carriera a costo zero. Sì, ecco. Ma era ironico il mio. Certo. È un impegno in più per gli ascoltatori, perché in questi tempi di spese e di cose strane tengo a chiarire che questa prestazione è totalmente a titolo gratuito. Però è importante che ti sia stato riconosciuto il tuo impegno, certo. Sei stato chiamato come interlocutore, diciamo. Ecco, certo. Perché ho scelto questo? Giustamente molte persone mi hanno detto perché lo fai? Pochi mesi dalla campagna elettorale, in fondo questa non si sa neanche se questa giunta rimane. Io ho fatto una riflessione diversa. Si è dimesso il professor Guidi, perché intanto dobbiamo ricordare che tutto nasce dalle dimissioni del 12 novembre, il professor Guidi da questo incarico, e l'ho assunto perché ritengo che anche un mese, anche 15 giorni di impegno verso la pubblica amministrazione per contribuire a risolvere quelle questioni che hai posto correttamente nella tua introduzione, vale la pena farlo, perché io non faccio calcoli politici, non sono al servizio di qualcuno, da 30 anni e passa mi occupo di disabilità e l'ho sempre fatto senza bisogno di avere incarichi e credo di averlo fatto sempre con onestà. Posso dirti una cosa, Michele, visto che l'hai introdotto tu l'argomento, io dico il mio punto di vista. Chi vive problemi come questi, o in prima persona come te, o indirettamente come le famiglie, in realtà della politica se ne frega. In realtà non ha nemmeno il tempo per farsi un'opinione e per seguire la vicenda politica, talmente affaticato, assatanato, avvelenato dal suo quotidiano, che per lui basterebbe che qualcuno gli desse attenzione, sarebbe disponibilissimo a ricambiare questa attenzione con un'adesione. Ma perché la politica invece è così poco interessata a questo mondo? Fanno la corte a tutti. In questo momento si sente parlare di qualsiasi apertura verso qualsiasi minima problematica, ma perché nessun politico pensa che in realtà il bacino della disabilità delle loro famiglie sarebbe un interessante patrimonio da coltivare anche in maniera strumentale come bacino di voti? Ti faccio una domanda cattiva che non c'entra niente con la trasmissione, però mi interessa questa cosa. No, è semplice. Noi siamo passati ad un livello culturale in questo paese così basso che riguarda tutta la politica. E il livello cosa prevede? Prevede che più la gente vive male, più il politico ritiene che da qui ricava ragione del proprio consenso. Ossia, anziché misurarsi su interventi seri, anziché misurarsi sulle capacità rispettive delle varie forze politiche di proporre il bene della gente, si spera che ogni amministrazione vada male per poter sul male, sulla disperazione dire poi ci penso io. Io ho proposto, e lo voglio dire perché lo ribadirò in questi mesi di campagna elettorale, un patto tra le forze politiche, almeno a Roma, perché a livello nazionale non ho la forza di arrivare, di dire perché il sociale. Beh, in questo momento sei a livello nazionale. Certo, però lo propongo qui, ma non ho, diciamo, la forza per riproporlo in ogni sede, quindi approfitto anche dell'occasione che mi dà una radio tra le più importanti come la vostra, per dire perché non dacci si atto, Michele, che in questo momento anche come media, passati le grandi kermesse, delle grandi raccolte pubbliche di soldi per giusto e leciti fini sociali, non se ne frega più niente nessuno di sociale. No. Anche il servizio pubblico che ne aveva fatto una bandiera si è un po' dimenticato. Esattamente. E quindi ti dicevo, il patto qual è? Perché i partiti non si mettono lì a dire sul sociale interveniamo e riteniamo che sia una priorità di questo Paese? Lo facciamo tutti insieme perché dobbiamo dare alle persone certezza. Non è normale che a secondo di chi governa le cose aumentano o diminuiscono. Noi dobbiamo vivere in un paese dove indipendentemente da chi vince, la mia vita, la tua vita, deve poter proseguire con la stessa serenità di prima. E la battaglia politica fatela sul resto, ma non la fate sulle disgrazie o sulla fragilità, perché è veramente una cosa indegna. È questo che io chiedo alle forze politiche. So che è un appello inascoltato, ma comunque bisogna insistere su questo. Dovete cambiare cultura, dovete far acquisire ai disabili e alle fragilità in genere dei diritti che dovete mantenere e che non debbono comporre la vostra campagna elettorale. Allora, detto questo, Michele, mi fa piacere tu l'abbia detto, sento già l'eco delle risate di chi ha ascoltato, che in questo momento sta facendo le campagne elettorali. Noi ce ne sbattiamo e andiamo avanti, certo. Entriamo nel problema. Enrico, primo ascoltatore che telefona. Sì, Nicoletti, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io racconto un po' la nostra esperienza, che è un'esperienza di un'associazione di persone con autismo a Rimini, ed è un'esperienza molto positiva quella di essere riusciti a fare squadra con le istituzioni e aver fatto qualche cosa di positivo. Ecco, come avete fatto? Qual è il segreto? Ma il segreto... Cioè, per uscire da quella gabbia di dire aspetto che qualcuno faccia qualcosa per me. Esatto, ci siamo mossi noi e abbiamo dimostrato che è possibile fare. Non abbiamo fatto un servizio alternativo, ma abbiamo fatto un servizio migliore tutti insieme. Quando dite noi, chi? Genitori, famiglie? Genitori, famiglie, che si sono unite, hanno coinvolto prima l'ASL, che ci ha dato il giusto spazio, i comuni del circondario, e abbiamo organizzato dei servizi molto utili. Molto c'è ancora da fare, però tutti insieme siamo riusciti a unire le forze. Noi abbiamo portato dei capitali privati attraverso il fundraising, abbiamo unito i capitali pubblici e lì siamo riusciti a costruire qualcosa. Quello che io noto e che ancora si potrebbe fare molto è la formazione delle persone al volontariato. Cioè, quello che io dico è i nostri ragazzi spesso non hanno l'occasione di toccare con mano i vantaggi di diventare volontari, di fare qualcosa per gli altri. Allora la mia proposta è: istituiamo una regola per essere iscritti alle superiori, 10 ore di volontariato durante l'estate prima delle superiori, poi ognuno decide, dopo 10 ore sono niente, ma ognuno dopo decide se è il caso di continuare o non continuare. Fermiamoci qua, Enrico, è molto chiaro. Allora, un esempio positivo di aggregazione spontanea di famiglie che sono entrati in un dialogo felice con le istituzioni, hanno cominciato a creare una realtà, perché i parametri e, diciamo, le procedure per creare una realtà che funzioni ci sono, i modelli ci sono, non è che è qualcosa di astratto, e la difficoltà è poi applicarla. Olivero Motta, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei. Olivero Motta è vicepresidente cooperativa sociale Intrecci, ha un blog, Gente di Lato, blogspot.com. È interessato, diciamo, direttamente anche professionalmente al problema del supporto a quelle che sono le attività istituzionali nei confronti della disabilità e del disagio in genere. Certo. Quello che mi viene a domandare: qual è il punto debole? Colangelo dice da tanto tempo, noi lo conosciamo, lo sappiamo, perché a un certo punto, quando il problema diventa pressante, quando la famiglia non ce la fa più e quando le istituzioni sono un muro di gomma contro il quale non si può far niente, non scatta questo meccanismo e ci si comincia a organizzare? Beh, in realtà nella storia di moltissime cooperative sociali c'è proprio questo elemento. Molte cooperative sociali che si occupano di disabili, per esempio, nascono così: le famiglie si mettono assieme, cercano risposte, cominciano a capire che il volontariato è importante, aggregano volontari, ma poi fanno il passaggio anche verso la professione. Posso dire una cosa, volontariato è una bella parola, ma non tutto può essere appoggiato sul volontariato. Io la vedo diversamente, la vedo come un'organizzazione, un'azienda che funzioni, che cammini con le proprie gambe, che riesca a produrre posti di lavoro. Siccome c'è necessità estrema di professionisti specializzati, siccome molte volte la risposta istituzionale dice io d'imperio ti do delle persone che tu devi comunque tenere a casa tua, usare per il tuo problema, perché sono quelle che scelgo io, e ti arrivano a casa persone che non hanno nessuno skill professionale. Uno dice: ma perché lo Stato spende soldi per persone non formate, quando io potrei aiutare a indicare le persone meglio formate? Certo, qui dipende molto dagli amministratori. Un rapporto importante con gli amministratori locali consente anche un coinvolgimento, per esempio, appunto, della cooperazione sociale. In qualche modo è un essere un po' ibrido e trae da lì proprio il suo vantaggio e le sue possibilità, cioè di conoscere i problemi da vicino, perché spesso le sue radici stanno nel bisogno, e dall'altra parte di aggregare persone che hanno passione per il sociale e che lo scelgono come professione. Risposte di questo tipo ce ne sono, naturalmente dipende anche da dove abiti, perché l'Italia è molto diversa, le regioni, le province, le città sono molto diverse, sono alcune città in cui i servizi sono veramente carenti, in altre in cui sono invece positivamente sviluppati e lì puoi trovare un appoggio serio. È possibile capire, per dare un'idea in termini concreti di numeri, quante sono le cooperative e le associazioni che lavorano nel terzo settore e quanta manodopera impegnano? In questo momento voglio parlare proprio di persone che professionalmente ci lavorano. Il volontario, certo, è una perfetta e ottima cosa, bella l'iniziativa dell'ascoltatore, ma non ci possiamo basare sui volontari per un problema che è concreto, quotidiano e dura tutta la vita e oltre la vita anche di chi se lo pone. Certo. Beh, le cooperative sociali sono ormai una realtà importantissima. Gli ultimi dati parlano di circa 14.000 realtà in tutta Italia con più di 350.000 addetti, persone che dedicano la loro vita professionale a questo tipo di problemi. L'84% è assunto a tempo indeterminato, quindi anche un lavoro di qualità, non solo dal punto di vista della passione, delle motivazioni, ma anche proprio del tipo di lavoro che viene fatto. Quindi in un momento in cui stanno tutti cercando di inventarsi posti di lavoro o occasioni professionali, questo sarebbe un settore che potrebbe assorbire molta forza lavoro, specializzata naturalmente, bisogna studiare, bisogna avere una particolare vocazione, non è che ci si può andare come uno si siede dietro una scrivania e aspetta che, ne so, che gli diano gli incartamenti da passare al vaglio. Certo, questo è uno dei paradossi, no? Questo settore è uno di quelli che sono più sviluppati comunque in questi anni di crisi. Perché i servizi alla persona sono una parte del futuro di questo paese. Il dramma è che appunto una buona parte della politica non se n'è ancora accorta. Cioè, oltre al dato del cuore, del sentimento, spesso retorico, c'è un dato importante anche dal punto di vista economico. Perché no? È il lavoro delle persone a servizio di persone fragili. Michele Colangelo, una persona che io conosco che fa corsi di preparazione professionale proprio per assistenti educatori nel campo della disabilità psichica, dice: ma guarda, di 10 che ne vengono ne rimane uno alla fine, vengono laureati in psicologia, vengono persone con grandi attese, ma alla fine quando si tratta poi di mettere le mani, e si guadagna bene, non è che si guadagni male perché il lavoro ce n'è tanto, non fanno in tempo a distribuirsi fra le tante famiglie che hanno bisogno, che si impegnano di persona. Perché secondo te poi alla fine questo sembra un lavoro meno remunerativo, meno interessante di altri? Ma forse questo poteva essere vero prima. Io adesso, per i dati che ho, in realtà la domanda con la crisi economica è nettamente aumentata. Il problema è che adesso la verità è che l'occasione di lavoro sta diminuendo proprio perché gli investimenti nel sociale hanno subito una contrazione dovuta anche dai tagli, e quindi anche chi deve investire in questo settore fa fatica. Però non è che i disabili sono tutti morti, come il problema no. Come viene risolto? No, viene risolto. Allora, fino adesso, almeno parlo della realtà romana, ci siamo basati su quelle che erano le vecchie regole, e quindi in realtà non entrava nessuno più che non fossero quelli già assistiti. Con la riforma che noi stiamo proponendo in questi giorni vi è una profonda rivoluzione culturale che va proprio incontro a tutto quello che tu hai introdotto all'inizio, cioè il diritto di scelta, l'autodeterminazione, la possibilità di diversificare i servizi, ma dove le famiglie diventano centrali nella loro progettualità dell'esistenza del figlio, mentre fino a ieri si diceva: se non sei una persona che da solo è in grado di farlo, non hai diritto di fare un progetto per tuo figlio. Ti prendi quello che passa al convento. Esatto. Ecco, ma questa diversità, questo cambio totale di cultura, chi non ha il problema non capisce quanto sia fondamentale per una famiglia poter scegliere l'operatore che si occupa del disabile, perché c'è un rapporto sottile di fiducia, di continuità terapeutica, di assistenza. Ecco, dal punto di vista dell'impegno di spesa pubblica, cosa cambia? Cioè, cosa cambia lo Stato se le 3 lire che spende per la persona che assiste il disabile vanno alla persona che sceglie la famiglia o a una persona di una cooperativa o di un ente che sceglie lo Stato? Te lo spiego subito. noi abbiamo introdotto tre tipologie di assistenza, quelle che chiameremo la diretta, cioè tutta l'assistenza gestita dalla cooperazione sociale, la mista, che è una novità assoluta, ossia l'utente sceglie che l'assistenza di base non venga più affidata alla cooperazione sociale perché lì ha un costo di oltre 21 euro, mentre affidata all'assistenza di base ha un costo di 9 euro e mezzo. Sempre ora si dice ora. Parliamo ora. Di tariffa oraria. Sì. Poi vi è l'assistenza indiretta. Sì, perché non tutti lo sanno. È fatta ore, io ho 3 ore di sostegno, io ho 4 ore. Abbiamo cambiato questo. Era così, era. D'ora in avanti, l'altra novità culturale è che l'utente non è un insieme di ore, perché è veramente squalificante e offensivo. L'utente ha un budget e con quel budget può decidere in che modo diversificare le varie attività che naturalmente sono utili alla sua vita. Fermiamoci un attimo, Michele, ad andare all'informazione della borsa, è molto interessante, questo è il punto vero. Finora l'assistenza era fatta ore, è diritto a 3 ore, e il resto del tempo, sta in catalessi, dorme, sta fermo, guarda la finestra, guarda il muro, se ne occupa qualcun altro. Oggi è un po' diverso, oggi si dà il diritto al disabile a avere una giornata fatta di 24 ore come ogni essere umano. Melog, la realtà condivisa. Prendiamo velocemente la trasmissione, visto che il tempo è poco e gli argomenti sono tantissimi. Ci stiamo districando in una possibile soluzione della gestione di un disabile o di una persona non autosufficiente in una famiglia. Lo Stato ha alcune risorse, sempre meno, vengono sempre più lesinate. Ci sono poi le persone che professionalmente si occupano di questo problema, ci sono le famiglie. Le famiglie cominciano a essere, questa è la vera novità, non più un ente passivo, qualcuno che sta in attesa dell'aiuto. Le famiglie cominciano a organizzarsi, cominciano a creare dei circuiti virtuosi, cominciano a creare loro stesse le cooperative, le associazioni, si mettono in relazione con le istituzioni, ci sono istituzioni più sensibili, istituzioni meno sensibili, cominciano a farsi sentire. Questa forse è la via giusta. Gianluca, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Io sono un avvocato che mi occupo da anni di disabilità psichica. Io credo che il problema nasca proprio dall'impianto normativo che regola le situazioni, le assistenze ai disabili, e richiamo la legge 104 del 92, che è una legge che nasce non a tutela e riconoscimento dei diritti del disabile, ma è una normativa che viene letta come l'interesse della collettività ad assorbire i disabili. Già questo è, a mio avviso, una contraddizione in termini, perché se un impianto normativo nasce per la tutela di un diritto e non per un interesse della collettività. Forse cambiando questo impianto e mettendo in prima persona il disabile, probabilmente molti problemi potrebbero essere risolti. E io credo che un grosso scossone all'assistenza ai disabili, specialmente a livello di assistenza culturale ed educativa, è stata data da un'ordinanza del 2002 del giudice Lamborghese, dove poi ha dato via a tutti i vari ricorsi che sono stati fatti presso i tribunali che hanno riconosciuto l'insegnante di sostegno anche al di là di quelli che erano i limiti di bilancio. Sì, oggi si parla molto di ricorsi e vengono fatti questi riconoscimenti. C'è anche da dire che la coperta è una, è stretta. Quelli che fanno ricorso ottengono più ore, visto che si parla ancora di ore, e gli altri che non fanno ricorso comunque se le sentono sottrarre. Si sentono sottrarre, infatti alla fine nasce un po'. Le faccio un esempio paradossale: in una classe di ragazzi, quelli che hanno fatto ricorso ottengono, perché giustamente interviene il tribunale amministrativo, ottengono le loro ore, ma queste ore non è che uno se le può inventare, vengono tolte ad altri. Non so perché ne conosco bene questo problema. Vengono tolte ad altri, ma il fatto è che può intervenire con nuove assunzioni, cioè sì. Ma questo non sta proprio scritto, cioè nessuno assumerà delle nuove persone, questo è chiaro, almeno nelle scuole non si assumeranno nuovi insegnanti di sostegno o nuovi assistenti, quindi è giusto in linea di principio, ma secondo me è un po' difficile che sia soltanto questa la soluzione. Fermi un attimo, Davide Cervellin, buongiorno. Buongiorno a lei e gli ascoltatori. Davide Cevellin è un imprenditore, velocemente racconto la sua storia perché così lascio a lui lo spazio proprio per le riflessioni. Nasce nel 58 a Asolo, a causa di una retinite pigmentosa ha perso progressivamente la vista, è diventato cieco a 16 anni, imprenditore, ha fondato Tiflo System SPA, azienda leader nel settore delle tecnologie per persone disabili, presidente della commissione handicap di Confindustria, è stato, ha scritto vari libri, alcuni per Marsilio Editore, Quando un cieco vede oltre, Disabili, Senza maschera e via dicendo. Insomma, lei è uno che per necessità ha dedicato la sua vita al problema, però in maniera tecnico-scientifica e imprenditoriale, o sbaglio? Ma io ho sempre creduto che la disabilità può essere una risorsa, nel senso che noi abbiamo dei bisogni da soddisfare, nel momento in cui soddisfiamo questi bisogni o troviamo chi ce li soddisfa, diventiamo leva per l'economia. E quindi tutto questo dibattito resta ancora un dibattito che per me ha dei connotati molto nebulosi, cioè nebulosi perché non si vuole vedere la realtà, non si vuole capire, sentivo parlare prima di cultura, manca proprio la cultura della cioè noi saremmo, noi saremmo stati nebulosi in questa trasmissione? No, ambiguità. Tranne Nicoletti e le trasmissioni di Radio 24, no, parlo della cultura in generale, no? E di un certo dibattito in generale. Ecco, lei dice il disabile insomma è una risorsa e crea lavoro. Disabile è una risorsa, crea lavoro, l'importante è creare lavoro qualificato, perché quando sentivo parlare di quei numeri, 350.000, gli oltre 90.000 insegnanti di sostegno, molto spesso sono occupazione, sì, ma è occupazione molto molto poco qualificata. Esattamente, esattamente quello che dicevamo all'inizio. È ora che si capisca che questo è un settore in cui vanno assegnate persone di alta qualificazione. Noi abbiamo di alto bisogno di risposte qualificate, di risposte di alta specializzazione. Solo in questo modo possiamo trovare il modo di avere un nostro spazio di protagonismo, altrimenti prevarrà comunque sempre il buonismo che genera lavoro clientelare ma non dà nostra partecipazione. Cioè è passato il tempo della suora baffuta e dell'assistente, non è più il tempo, non è più il tempo il fare vedere cosa sono oggi gli assistenti, gli educatori. Noi abbiamo bisogno di chi ci aiuta a trovare le soluzioni per muoverci, per comunicare, per scrivere, per leggere, per trovare una dimensione soddisfacente della nostra quotidianità quando abbiamo pluridisabilità. Allora Cevellin, visto che lei è del mestiere, visto che lei è del mestiere di un imprenditore, siamo, il disabile è una risorsa, ammesso che attorno al disabile possano girare soldi. Le famiglie impegnano nei limiti del loro possibile gran parte del loro budget, naturalmente per la persona che ha più bisogno. Ma in generale, i pochi o tanti soldi che girano attorno a questo mondo, come vengono finalizzati, come vengono distribuiti, come ci si arriva? Molto spesso vengono spesi attraverso l'erogazione a servizi che servono ad autolegittimare talune organizzazioni e non vanno in nessun modo a dare una risposta ai singoli. Cito un esempio, i ciechi hanno bisogno dei libri. Oggi basterebbe dire che gli editori devono produrre una copia del libro in formato elettronico e tutti i ciechi potrebbero leggere i libri. Invece li diamo con una legge a un ente che è la Biblioteca di Monza, la quale fa pagare prima i libri allo Stato attraverso questa legge che finanzia la Biblioteca di Monza, poi li fa ripagare ai comuni. Naturalmente in questo farli ripagare ai comuni sottrae risorsa ai comuni per altri servizi che servono invece per altri disabili. Quindi fermo là un attimo. Michele Colangelo, che ne dici di questo che ha detto adesso Cervellin, di questo elemento? Assolutamente. Un giro vizioso per cui i soldi rimangono attaccati in tante mani ma non arrivino mai a chi veramente sono destinati. Sì, uno dei veri problemi, io lo dico da una vita, cioè si è creato un sistema enorme di indotto che deve arrivare alla disabilità, che ha un costo enorme, ma il terminale, che è il disabile, alla fine di tutto questo indotto riceve nulla. Cioè significa che la politica ha creato un maxi sistema per il quale è bene pagare tutti quelli che se ne occupano in progetti, pseudoprogetti e quant'altro, il terminale è la cosa che interessa meno. È questo che bisogna cambiare. Quindi, diciamo, gran parte delle risorse, poche o tante che siano, ripeto, servono a mantenere l'indotto, il grande indotto di quelli che fanno la beneficenza, la carità, si occupano del terzo settore, però alla fine chi sta a aspettare gliene arriva ben poco. Valentina Furlanetto, buongiorno. Sì, buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora, cara collega, mi dispiace, ti ho fatto stare molto tempo ad ascoltare questa trasmissione, ma ci tenevo. Adesso fino alla fine mi accompagnerai. Valentina Furlanetto, collega di Radio 24, è molto al dentro a questi problemi, tanto che ha pubblicato per Chiare Lettere un libro che in questi giorni sta facendo parlare moltissimo. Intere pagine dei giornali hanno parlato. Un libro che è coraggioso e pericoloso allo stesso tempo. L'industria della carità, da storie e testimonianze inedite, il volto nascosto della beneficenza. Rispetto a quello che tu hai sentito fino adesso, questo è un libro che abbraccia il mondo vastissimo delle organizzazioni non governative, dei grandi giri internazionali. È fantastico vedere come in realtà quello che miseramente è uscito dalla nostra missione vale anche a livelli internazionali. Ma rispetto a quello che hai sentito, tu ci dai qualche valutazione su quanto sia vero che del grande indotto destinato alla disabilità, al sociale, poi in realtà sia l'apparato che ne goda più che il diretto terminale? Allora sì, io mi sono occupata proprio di questo, dei numeri, di quello che arriva alla fine ai beneficiari, no? Che siano appunto disabili, anziani in Italia, i minori e quant'altro, che a livello internazionale, come dicevi tu, quindi per capitoli a seconda del settore. È nato da questo, ti chiarisco questa cosa perché è importante, è nato da una serie di input che ho avuto in questi anni in cui mi sono occupata da giornalista di non profit, terzo settore ed altro. Una volta parlavo con un signore, un prete di Padova, che gestiva una onlus della zona, e lui mi diceva, erano alcuni anni fa, io ero ancora molto ingenua riguardo a questo settore, alla beneficenza in genere, lui diceva: lo scopo della mia associazione è quello di estinguersi, perché se io riesco a estinguermi vuol dire che lo Stato ha fatto il suo dovere. Qui c'è un problema. Era un prete unico fra tanti, diciamo la verità. Beh, insomma, anche Alex Zanotelli, che scrive la prefazione del mio libro, dice: non carità ma giustizia, no? Quando diciamo che questo paese trionfa il volontariato e la beneficenza, vogliamo dire che lo Stato ha fallito. Questo secondo me è fondamentale. Allora, fermo un attimo, Valentina, tu sai le nostre regole, vai il traffico e continui subito te, fra un istante. Melog, la realtà condivisa. 800240024, ci eravamo interrotti con Valentina Furlanetto, autrice, oltre che collega di Radio 24, dell'industria della carità, da storie e testimonianze inedite, il volto nascosto della beneficenza, con prefazione di Alex Zanotelli per l'editore Chiare Lettere. Valentina, esiste un coefficiente di efficienza, scusa il termine brutto, fra un'organizzazione che si occupa di terzo settore in generale e il risultato? È possibile stabilire tra quanto entra e quanto poi alla fine arriva al diretto interessato il suo livello di reale affezione al problema, come diceva il tuo amico prete? Sì, non era un mio amico, era un interlocutore. Vabbè, mica, non volevo sottendere le tue amicizie pretesche. Allora, io certo, indago proprio questo, i bilanci innanzitutto e le testimonianze di chi lavora di questo mondo, no? Perché si parla molto di buoni e di bambini, ci si nasconde sempre, no? Anche Flaiano diceva: dietro i bambini, ma poi si fanno le peggio cose dietro i bambini. Invece bisogna guardare i numeri, quando si dona, quando si fa qualcosa per gli altri, bisogna guardare i bilanci. Innanzitutto in Italia non è obbligatorio per le associazioni pubblicarli, e questo è già un problema, perché noi non possiamo sapere dove vanno a finire i soldi. In alcuni casi li pubblicano, in alcuni casi pubblicano un bilancio sociale che dice molto poco in realtà sui conti, e quando li pubblicano a volte non sono esattamente virtuosi, a volte quello che va in marketing e in pubblicità è quasi pari a quello che va nei progetti. Viene in mente le grandi maratone televisive. Esatto, anche sì. Per non dire poi di testimonial magari famosi, no? Che hanno scoperto che una comparsata vale molto di più magari di una presenza. Molte volte show. Sono pagati, non è che vanno lì a mettere la sciarpina perché sono buoni. Sì, sono pagati con i soldi che voi date in beneficenza. Non in tutti i casi, questo è importantissimo. Il mio libro non è assolutamente scandalistico. Io sto ricevendo reazioni molto agguerrite e arrabbiate. No, bisogna parlare di queste cose. Hai messo cose. Il dito in un vespaio. Sì, volontariamente. Volontariamente. Mi rendo conto che mi girano attorno tante vespe. Onore al merito. Ci sono molte vespe però che hanno voglia di parlare, perché questa casa dei buoni è piena di tante persone. È come se noi dicessimo che i medici sono tutti buoni. Fanno del bene, certo, ma noi chiediamo ai medici di rendere conto di quello che fanno e dobbiamo fare lo stesso con le associazioni. Non a caso ci sono dei dati. La Corte dei Conti nel luglio 2012 ha stilato una relazione che tutti possiamo guardare. Da questa viene fuori che ad esempio per alcune associazioni in Bolivia aveva utilizzato dei terreni di terzi per costruire, poi che appena il 20% del programma di sostegno alla salute materno-infantile di un'associazione in Mozambico, poi insomma vi prendete il libro e andate a vedere quale associazione, soltanto il 20% è andato a buon fine. Un altro ancora, un programma di turismo sostenibile portato avanti da un'altra ONG, questa, i risultati secondo la Corte dei Conti sono irrilevanti, insomma i giudici contabili sono molto lontani dal dire cose a loro vantaggio, scrivono quello che è. Quando si viene a sapere da una mia fonte che in Nepal un progetto del Ministero degli Esteri Italiani dell'Università della Tuscia e della FAO in 10 anni di lavoro in un uliveto del Nepal ha portato come risultato una bottiglia d'olio il cui valore immagino sarà a questo punto di 1 milione di euro, ci si chiede perché abbiamo speso tutti questi soldi. Allora, Valentina, quello che vale per il Nepal, per il mondo, vale anche per l'Italia. Secondo, vale anche per Kanikati, no, per Ragusa. Non secondo me, io vedo anche i bilanci delle ONG, tutte le ONG possibili italiane, quelle più grandi ovviamente, quelle internazionali, purtroppo accade anche in Italia. Ti aggiungo una cosa, prima sentivo parlare di possibilità di lavoro, è senz'altro vero, a parte il fatto che come dicevamo prima ci vuole professionalità, e tutto quello che è volontariato toglie lavoro. Siamo attenti a questo. Ma infatti a me la parola volontariato mi sta bene, chi vuole fare volontario, no? Non è la risoluzione il volontariato. Esatto. E poi io ho in mano altri dati che dicono che sono dati contenuti del SISCOS, l'organismo che offre le coperture assicurative per gran parte degli operatori delle ONG e delle ONLUS, quindi insomma dati neutri, no? Non politici. Risultano essere gli operatori italiani impegnati in questi settori 7.194, in crescita rispetto agli anni precedenti, ma la stragrande maggioranza, 6.400 su 7.100, sono contratti a collaborazione. Attenzione, allora, perché c'è molto precariato anche. Sì, però c'è da dire, Valentina, quello che dici te, i numeri ci danno te, mi danno un'idea, che in realtà di ci soldi comunque, lavoro. Pubblici, privati, di associazioni, ne girano tanti. Molti, come mai? 67 miliardi nel terzo settore. Quanto la moda? Ti dico solo questo, il 4,3% del PIL. Quindi... Allora, ferma un attimo. Maurizio Ferraro, buongiorno. Ciao. Maurizio Ferraro ha fondato una cooperativa insieme ad altri genitori, cioè è partito proprio da zero, vivendo il problema in famiglia, gestisce un agroturismo, ha coinvolto il preside di una scuola. Allora, che impressione ti fa sentire i numeri che dà la collega Valentina Furlanetto rispetto alla risoluzione pratica del problema come l'hai vissuta tu? Guarda, non riuscivo a sentire, ti posso magari parlare della nostra esperienza. Intanto siamo una cooperativa formata da genitori di ragazzi autistici gravi, e naturalmente ragazzi giovani adulti, 18-20 anni. Quando nasce veramente il problema che sì, nessuno quando ti... Quando praticamente scopri che nei servizi pubblici, nelle ASL, i ragazzi diventano... disabili adulti e per il problema che hanno non possono essere assistiti dalla ASL perché non riesce a coprire questo servizio, che è un servizio dove il ragazzo richiede un addetto, una persona, quello che chiamiamo assistente, che è un assistente domiciliare, un assistente riabilitativo della ASL, che è un assistente specialistico nella scuola. Quindi praticamente il ragazzo resta solo. L'unica struttura in questo momento che aiuta questi ragazzi è l'assistenza specialistica, cioè la possibilità che questi frequentino le scuole medie superiori e quindi possano in qualche modo attraversare questa fase con le famiglie che hanno questo contributo. In realtà è allora, dimmi però esattamente in termini concreti e sintetici, allora, il più possibile, cosa avete fatto? Abbiamo pensato questa cosa: uno, cercare di iscrivere i ragazzi in una scuola che desse la possibilità a loro di continuare questa esperienza anche successivamente, quindi non fermarci alla condizione, alla loro condizione di disabilità, al fatto che hanno un bilancio delle competenze pari a zero, che non potranno essere mai assunti neanche nelle cooperative di tipo B, perché comunque un minimo di bilancio lo devi avere. E abbiamo iniziato a costruire un processo formativo di abilitazione al lavoro già all'interno della scuola, e non a caso la cooperativa è formata anche dal dirigente scolastico come socio fondatore su delibera del consiglio d'istituto, quindi abbiamo fatto tesoro di tutta una serie di norme, regole, leggi e regolamenti, quello dell'autonomia scolastica. Quindi diciamo le leve ci sono per poter fare questo tipo di lavoro, manca solo la volontà di tutte le parti. Gli strumenti ci sono, tant'è che abbiamo attivato le procedure per l'agriturismo, che è una procedura lentissima, sono 2 anni che stiamo lavorando a questa cosa, un processo amministrativo che ti uccide, come sento spesso alla vostra radio, quando si dice si costruisce una piccola impresa e poi la difficoltà di attivarla anche per le imprese normali è la burocrazia che in qualche modo ti obbliga a percorsi infiniti, cioè fai prima a chiudere l'impresa che avevi le autorizzazioni per aprirla. La vostra impresa si tiene in piedi, la vostra impresa, Ferraro? Guarda, la nostra impresa in questo momento si tiene in piedi nonostante il processo di autorizzazione in corso, perché utilizziamo per esempio l'autorizzazione per le somministrazioni temporanee, perché siamo all'interno della scuola, perché lavorano con noi operatori. Abbiamo costruito insieme alla scuola questa idea del progetto individuale, che è l'articolo 14 della legge 328. Il preside è una delle poche istituzioni che su questa cosa ha recepito questa faccenda, quindi noi canalizziamo lì anche il lavoro specialistico, lavoriamo con la facoltà di psicologia che sta facendo un laboratorio di formazione e di inserimento. Quanti ragazzi sono coinvolti da questo tipo di attività? Guarda, la cooperativa è fondata da 8 familiari di ragazzi disabili autistici gravi iscritti alla scuola, ma sulla cooperativa gravitano tutti 32 ragazzi disabili. Allora, fermo lì, Ferraro. Tutti direte, avete tagliato i tempi, questa missione. No, continuiamo domani. Domani avremo dedicato comunque lo spazio a tirare le somme su questo problema con alcuni degli ospiti che abbiamo avuto questa mattina. Riprendiamo esattamente, come fosse una seconda puntata, il tema domani mattina. A domani.